il monitoraggio, che ha riguardato una quindicina di città sia del nord che del centro e del sud Italia, ha evidenziato sostanzialmente una disapplicazione della nuova legge. In realtà sono emerse, diciamo, anche vecchie questioni, diciamo, che non sono purtroppo nuove, relativamente a problemi enormi nell'accesso alla procedura, ritardi assolutamente intollerabili nel rilascio dei permessi, richieste di requisiti non previsti dalla legge. Insomma, però il punto fondamentale che voleva essere anche oggetto dell'indagine era proprio l'applicazione, appunto, della nuova normativa, in particolar modo sulla applicazione dell'istituto giuridico della protezione speciale, che è quella forma di protezione interna, quindi è su base nazionale, non è una forma di protezione internazionale, che ha sostituito la protezione umanitaria, che è stata abrogata, come noto, nell'ottobre del 2018. Questa nuova forma di protezione è in realtà il ripristino della protezione umanitaria a tutti gli effetti, perché di nuovo le domande devono essere esaminate guardando gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, ma c'è un'aggiunta molto interessante che amplia quindi la portata dell'applicazione della legge, che è quella della inespellibilità legata al rispetto della vita privata e familiare. Di cosa si tratta? Sostanzialmente devono essere considerate, ai fini non solo di un rilascio di un permesso di soggiorno, ma proprio di una protezione, quindi di uno status giuridico di protezione e quindi poi di un conseguente permesso, quei percorsi di vita, insomma, sostanzialmente delle persone che li hanno portati a radicarsi in Italia e a quindi non poter ritornare nel proprio paese, certamente anche perché le condizioni di vita sono, diciamo, difficili, gravi, non sostenibili, ma soprattutto perché, appunto, la persona ormai, appunto, vive un contesto di relazioni sociali, familiari, personali nel nostro paese, è una sorta, diciamo, di diritto di non sradicamento sostanzialmente. Questa grande innovazione, che è innanzitutto un'innovazione culturale per la società italiana e per l'amministrazione pubblica, che devo dire ha sempre veramente avuto un atteggiamento estremamente rigido e ostile nei confronti di questo tipo di approcci, oggi viene fortemente ostacolato dall'amministrazione centrale e dalle parti più retrive della stessa, che insomma sostanzialmente non vogliono applicare la nuova normativa. Quindi sostanzialmente lo Stato, l'amministrazione centrale, come dire, boicotta se stesso, perché è una legge dello Stato la 173. Esattamente, anche qui è un paradosso, appunto per questo abbiamo chiamato paradosso all'italiana questa campagna, anche se è un paradosso per modo di dire, perché viviamo in un paese di paradossi, ma sì, per l'appunto questo dimostra come purtroppo in Italia esistano dei poteri che in realtà esercitano la propria influenza al di là dell'ordinamento democratico e quindi in questo caso al di là, appunto, dell'ordinamento legislativo, però è così perché l'amministrazione, per l'appunto il Ministero dell'Interno, ha addirittura emanato una circolare chiaramente illegittima e oggi già come dire nel mirino di molti tribunali, tra cui ricordo proprio un'ordinanza del 6 maggio del Tribunale di Bologna. Dicevo, questa circolare completamente illegittima indica le questure di non prendere le domande, appunto, di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, sostenendo che deve essere un esito di riconoscimento dato dalla commissione territoriale per l'esame delle domande d'asilo, il che in parte è vero, nel senso che questo canale esiste, ma la norma prevede due canali, quello, appunto, quale esito di terza forma di protezione, appunto quale è il possibile esito di riconoscimento da parte della commissione, ma anche prevede un canale più snello, più agile di riconoscimento diretto da parte delle questure, previo semplice parere delle commissioni, laddove è evidente che ci sono gli indicatori, gli indici, no, di inserimento sociale della persona, in modo da evitare che passi un altro anno, si ingolfi il procedimento, insomma la persona, appunto, ottenga il prima possibile una regolarità di soggiorno. Ecco, quindi questo secondo canale, pur previsto con maniera chiarissima dalla norma, viene disapplicato. Mi pare di capire quindi che sul piano giuridico si stia già lavorando per fare applicare la norma. Serve anche, come dire, una mobilitazione politica dell'opinione pubblica? Sì, perché altrimenti, come sempre succede, per una persona che avrà la forza, il coraggio, diciamo, e anche le condizioni, insomma, di poter andare da un avvocato e fare una causa, eccetera, ce ne saranno altre 10 che vivono nel silenzio, nella paura, dell'incertezza, e quindi è chiaro che la soluzione non può essere solo giudiziaria, ma deve essere innanzitutto una soluzione politica e sociale.